Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. C'è stato un periodo dell'anno passato, della stagione passata, in cui ci furono per alcuni giorni alcune inquietanti e sinistre notizie che vedevano al centro dell'attenzione delle maestre elementari che picchiavano i loro alunni. Quindi volli fare una puntata di Melog dedicata su due versanti: l'uno alla analisi del quotidiano, dell'attualità, del contemporaneo, le maestre smascherate dalle telecamere di videosorveglianza. La tecnologia svela una sorta di marciume all'interno del luogo più tranquillo, più protetto, in cui almeno noi speriamo ci sia maggiore protezione, che il luogo dove mettiamo i nostri figli. E poi invece antichi ricordi, lontane memorie di quando le maestre avevano licenza di menare e sembrava normale che una maestra prendesse il bastone e ci odesse sulla testa. Questa mattina si è aperta una questione qui in redazione: se l'inizio della primavera sia stato ieri o sia questa mattina. L'anno bisestile in realtà crea qualche ambiguità, ma diamo per scontato che oggi è il primo giorno di primavera. Ah, che meraviglia! Vedo da giorni che tutti rimpiangono il fatto che ci siano meno rondini. Ma ne siete mai accorti delle rondini? Le rondini legate alla primavera è qualcosa che ha un retaggio antico. La primavera nella istruzione scolastica tradizionale per tutti gli anni 50, 60, 70, non so anche 80, corrispondeva alla scuola elementare nel prendere la carta nera, ritagliare delle rondini e attaccarle con la colla al muro. Quella era la primavera, quella era la scuola. E oggi cos'è la scuola? Oggi cos'è la primavera? Beh, la primavera è iniziata molto male. È iniziata con un segno molto più preoccupante e che ci porta a un disagio molto profondo, che qualche rondine in meno nelle nostre città, se non vengono qui, avranno luoghi migliori dove andare. Liste di proscrizione, elenchi di professori ebrei da colpire, violenze inaudite. Ma di tutte queste violenze con cui ogni giorno facciamo i conti, leggendo giornali, ascoltando la televisione, che rappresentano una sorta di incrudimento totale della nostra società, non siamo più abituati a elaborare la violenza, probabilmente perché sappiamo che è qualcosa di riprovevole, ma allo stesso tempo la osserviamo straripare da tutte le fessure. Tanto più la comprimiamo, tanto più ci convinciamo che essa sia scomparsa, sparita la nostra civilizzazione, tanto più si apre un tombino e esce fuori un vortice violento. Quello che questa mattina vorrei che fosse l'argomento della nostra discussione riguardo a un luogo che ha molto a che fare con questo inizio di primavera, ha molto a che fare con le rondinelle ritagliate con la carta nera, ha molto a che fare con il tenero, dolce, carezzevole luogo in cui noi ricordiamo tutti, appoggiamo tutti i nostri ricordi più teneri, in cui ancora lasciamo i nostri figli, perché pensiamo che sia un luogo totalmente deprivato di ogni spiraglio di violenza che in realtà soffia veloce al di fuori di questo luogo che è la scuola elementare. Schiaffi, calci, pugni, pizzicotti, addirittura la testa sbattuta sul banco. Continui maltrattamenti a cui quattro maestre di un asilo di Mileto in provincia di Vibo Valentia avrebbero sottoposto uno dei bambini loro affidati. Un bimbo di neanche 6 anni affetto da un ritardo cognitivo e da una iperattività che le donne probabilmente non tolleravano, tanto da scegliere di usare la violenza. Minacce, urla, schiaffi contro 15 bambini d'età compresa tra 1 anno e 3 anni e mezzo di un asilo privato. Siamo a Casarile, tra le province di Milano e Pavia, ad inchiodare le maestre e le telecamere installate dagli investigatori dopo le prime segnalazioni dei genitori dei piccoli. Un clima di terrore e disagio, come testimoniano le immagini. Per la direttrice e la sua assistente sono scattati gli arresti domiciliari. La duplice domanda: di custodia cautelare, perché le maestre menano i bambini? Ma è una domanda, nella sua crudezza, nella sua essenzialità, che vorrei che qualcuno di quelli che mi ascoltano, siano essi insegnanti, genitori, osservatori, specializzati, stamattina non ho cercato esperti, già sono sin troppo pregne le pagine dei giornali di esperti che dicono la loro. La cronaca ci riporta alcuni episodi che, se associati, ci fanno riflettere. Chi come me è nato in una società antica, arcaica e appartenente a un altro secolo, un altro millennio, non trovava nulla di eccezionale sul fatto che le maestre alzassero le mani sui ragazzini. io in prima elementare c'ho ancora la maestra con la canna, che ci dava la canna in testa dalla cattedra, quelli delle prime file si abbassavano, i secondi prendevano le botte con la canna, era normale, tornavi a casa, dicevi la maestra mi ha dato uno schiaffo, ha fatto bene, e ce ne ridavano un altro. Non voglio dire che quello fosse un principio educativo sano, ma voglio dire che oggi abbiamo avuto un'evoluzione nella didattica, nella concezione dell'infanzia, e che quindi, secondo me, non mi sembra più adeguato ai tempi correnti il fatto che una maestra meni i ragazzini. Anche se perché io do uno schiaffo a mio figlio per strada, qualcuno mi vede, può senz'altro denunciarmi o può comunque a far aprire un procedimento nei miei confronti. Una maestra la cui missione, il cui mestiere, la cui aspirazione professionale è quella di occuparsi appunto di giovani creature umane, dovrebbe secondo me avere altri sistemi per amministrare quello che è il suo compito. Eppure le botte nelle scuole sembra che siano un fatto molto ricorrente, a parte l'episodio ultimo di cui oggi sono pieni tutti i giornali, che è quello accaduto in provincia di Brescia, dove una maestra è stata arrestata perché accusata di aver schiaffeggiato e battuto la faccia e la testa e tirato le orecchie dei bambini. Non sono botte affettuose, non è lo scappellotto, non è la sculacciata. I carabinieri, che messi in sospetto da alcune dichiarazioni dei genitori, hanno messo delle telecamere nelle scuole, e anche questo è un fatto su cui vorrei riflettere. Perché vengono messe delle telecamere nelle scuole? Perché si sente il bisogno di mettere telecamere nelle scuole? Addirittura il noto presidente dell'Osservatorio per i minori, Antonio Marziale, chiede l'introduzione delle telecamere in tutte le classi, come se fosse una necessità. La telecamera deve essere videosorvegliata. Perché? Perché la maestra, che è la persona che per statuto, per elezione viene messa lì a occuparsi dei bambini, deve essere sorvegliata. Perché non ci si fida? E perché non ci si fida più delle maestre? Beh, a parte l'episodio di Brescia, oggi leggo su Libro, c'è un'intera pagina che ricorda gli ultimi episodi. A un mese fa a Vibo Valenza anche un'altra maestra è stata fermata mentre tirava i capelli a dei bambini, e gli tirava i penni, le penne, tirava i libri in testa, gli sbatteva la testa sul banco. Sempre a Vibo Valenza l'anno scorso 4 maestre sono state arrestate perché avevano picchiato un bambino disabile. Avete sentito nel servizio di Sky TG24 ricordare questo episodio. A Rovigo un'altra maestra è stata arrestata a febbraio perché faceva rispettare l'ordine a suon di pugni e schiaffi, come un sergente istruttore, dice Giordano Tedoldi, che ha scritto questo articolo. Poi un'educatrice di 52 anni in un asilo, sempre in provincia di Brescia, voleva costringere un bambino che aveva appena vomitato a rimangiarsi il suo vomito, proprio un atto di sadismo. Poi andando avanti ci sono una serie di episodi che noi abbiamo visto, di cui ci siamo resi conto semplicemente perché qualcuno aveva pensato bene di mettere una telecamera, insospettito dal clamore dei genitori. Ma i genitori molte volte a fronte di questi episodi hanno atteggiamenti discordanti. Ci sono quelli che hanno fatto la denuncia, che hanno avuto i bambini traumatizzati, picchiati, che fanno intervenire le forze dell'ordine, quindi filmano la maestra, quindi vediamo in televisione questi terrificanti filmati. Le maestre prendono i bambini, li sbattono, li picchiano, li maneggiano come fossero delle bambole di pezza, e genitori che invece raccolgono firme per dire no, una maestra impeccabile, una maestra assolutamente su cui non possiamo avanzare nessun sospetto. 800240024, voi che siete genitori, avete bambini a scuola, siete educatori, siete maestre, avete responsabilità, avete esperienza, secondo voi perché le maestre menano i bambini? Io mi chiamo Paolo e sono nato nel 1940. Ricordo che quando eravamo a scuola, alle scuole elementari nel paese dove abitavo, un piccolo paese in provincia della Spezia, il maestro ai più cattivi mi faceva inginocchiare con il gran turco sotto le ginocchia, e per amplificare il dolore talvolta le dava da tenere in braccio un pezzo di legno. Quindi ricordo che io di queste cose qui sono cose molto crudeli, se vogliamo compararlo con la scuola di oggi. Esiste una trattatistica densissima sulle sevizie delle maestre nei confronti degli alunni, ma se appartiene comunque a epoche passate, è sempre infarcita di questo senso profondo. È stato necessario, è stato giusto, ci ha raddrizzato. Io avevo una maestra che addirittura c'era il gabinetto alla turca nella mia scuola elementare. Quando ogni tanto definiva che c'era stato un episodio di lordazione impropria di questa turca, prendeva i ragazzini e li appoggiava con la testa all'interno del gabinetto. Mi ricordo ancora questa sorta di auto da fé, noi tutti attorno, una bambina carinissima con le treccine bionda, col grembiale immacolato e il fiocco rosa, tutta rossa, con la maestra la prendeva per le trecce e la intingeva lì. È vero, lo ricordo, non ho traveggole. Questo era l'anno 1961, anno del primo centenario dell'Unità d'Italia, ancora avveniva questo in Italia. Ma è un retaggio antico. Il professor Erich Hoffmann, a metà dell'Ottocento più o meno, per educare ragazzini ispirò il famoso Pierino Porcospino. Chi è che non lo conosce? Pierino Porcospino è la storia di come si educano i bambini, con una sorta di contrappasso: a seconda della mancanza, quindi non si pettina, non hanno le unghie lunghe, c'è una punizione. Il bambino che si mette i pollici in bocca, arriva il sarto con le forbici, gli taglia i pollici. Se del bambino con le manine insanguinate senza dita, noi lo leggevamo questo libro, ma allora si educava così: il bambino che non mangia la minestra diventa smilzo, smilzo, smilzo e prima scompare. La bambina che gioca Paulinella con i zolfanelli prende fuoco e si brucia, due gattini piangono di fronte al mucchietto di cenere. Questa è una maniera per terrorizzare i ragazzini, appartiene ad un'altra epoca, ma abbiamo fatto dei passi avanti nella didattica, abbiamo capito qualcosa di nuovo, abbiamo trovato una maniera diversa per far crescere sereni i bambini, o ancora le botte fanno parte di una sorta di messaggio occulto che passa attraverso la didattica, e soltanto oggi, perché ci sono le telecamere, ci siamo accorti. Assunta, buongiorno. Buongiorno. Lei maestra... Io volevo sapere perché le maestre picchiano i bimbi. Sì, vorrei capirlo, sì. Glielo dico subito in 448. Le maestre picchiano i bimbi, prima perché sono acidi e hanno problemi in famiglia. Ma mica tutte in assoluto. No, scusi, Assunta. Dica. In assoluto, secondo lei, tutta la categoria delle maestre è composta di signore acidi? No. Nel modo più assoluto, non tutta la categoria. Quelle che picchiano. Io parlo di quelle che picchiano. Sono acidi. Quelle che picchiano non solo sono acidi, non hanno figlioli, non hanno coscienza. Io metterei... Ma lei in base a quale esperienza dice questo, Assunta? Io dico per esperienza, perché ora sono in pensione, ma ero un insegnante. Oh, quindi comunque le dirò una cosa. Mi sono sempre ribattuta per mettere le telecamere, non solo agli asili, alle scuole elementari, dove il bambino non si sa difendere. Perché a una scuola la mia sorella, che l'hanno picchiata, gli ha tirato con un... A quel tempo c'erano i calamai e le penne. Vabbè, negli anni 50, fino agli anni 50. Gli ha tirato la maestra, è scappata dalla finestra dal direttore De Cristo, me lo ricordo sempre, e il direttore De Cristo ha sospeso questa insegnante. Sì, però scusi Assunta, non ci sono più calamai e penne, penso. Sì, lo so che non ci sono. Dagli anni 50. Lo so che non si può anche più fare, però il bambino non si sa difendere, il bambino è sangro. Quindi secondo lei dipende da una sorta di acidità, di insoddisfazione familiare e personale della maestra, che non avendo figli si sfoga sui figli degli altri. Va bene. Rino, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Io mi occupo di prevenzione droga e alcol, qui a Bologna abbiamo un'associazione, e sto verificando con una grande sorpresa che tra gli adulti il consumo di droghe e alcol è molto molto diffuso. Quindi perché si fanno le maestre, picchiano i bambini? No. Beh, non dico, oddio, non voglio generalizzare, però non è la prima volta che anche, come dire, viene fuori questa problematica. È che non è saputo, insomma, non è... Quindi lei consiglia un alcol test alle maestre prima che entrino a scuola ogni giorno? Sicuramente, alcol test e anche antidroga. Questo, però, guardi, non la prendo assolutamente in giro. Non vedo perché la categoria delle maestre dovrebbe essere immune da un consumo abituale che hanno le categorie non soltanto adulte ma anche dei minori. Quindi secondo lei c'è una sorta di non controllo totale dato a sostanze psicotrope, per cui delle persone apparentemente in possesso di tutte le loro facoltà di controllo se la prendano con i minori. E questo è tipico, in effetti nelle famiglie dove c'è un consumo d'alcol si picchiano i bambini, il padre alcolista picchia la moglie, picchia i figli. Lei la durrebbe a questo, ma ha degli esempi, diciamo, ha una casistica un pochino osservata in maniera un po' meno superficiale, o una sua idea in generale? No, io mi sto re- rendendo conto che, volendo aiutare i ragazzini, gli adolescenti, perché noi puntiamo lì a far prevenzione, mi rendo conto che dispiace molti... sapere che un proprio figlio viene preso a calci, pugni e costretto a mangiare il vomito. Non si tratta più tanto di casi, secondo me, isolati, perché laddove mettono la telecamera prima o poi trovano comunque una maestra che mena un ragazzino. Mi comincio a domandare come mai. Sono passati decenni da quando era lecito e c'era una sorta di accordo fra famiglia e scuola, per cui dici sì, menalo te e poi io gli do la giunta, come si diceva a casa mia. C'è da dire un'altra cosa, che fare l'insegnante è molto stressante. Sì, ma quello anche asfaltare le strade è molto, molto, molto stressante, però, ma non è che l'asfaltatore torna a casa e picchia i figli. No, lei ha ragione, però io mi metto nei panni di un insegnante stressato, no? Cosa faccio? Cerco di prendere delle sostanze che mi fanno, come dire, essere più in forma, essere meno stressato. Ma se ha bisogno di stimolanti la maestra elementare, cioè il ferroviere cosa dovrebbe fare? Il professor Chiappini e Fabrizio Intonti cosa dovrebbero fare, che hanno a che fare con me tutti i giorni? Non la voglio buttare a ridere, però io prendo buone tutte le ipotesi che fanno gli ascoltatori, però esprimo un mio parere. Massimo. Buongiorno. Pronto? Sta facendo la doccia, cos'è? Sento un rumore. No, tutto ok. Allora, sì. Io ho 26 anni, giusto? Sono andato all'asilo dalle suore e ricevo certi scappellotti sulla bocca. Sì, le suore menavano abbastanza, posso dirglielo sì. Con esperienza e cognizione di causa. Poi alla scuola elementare avevo una maestra di matematica che ci picchiava sul sedere con un righello di legno. Con righello, sì. Allora, sì, però parla sempre di anni in cui... Non c'era stato un dibattito così capillare sui sistemi didattici. Oggi nessuno vi direbbe che è giusto picchiare un bambino. Allora era tollerato, o perlomeno non si era affrontato il problema. Sì, però io volevo dire una cosa in merito a quello che lei ha detto poc'anzi. Vede, è un reato perché le arrestano e le portano subito dentro. Sì, ma io volevo fare una differenza rispetto al modo di picchiare, se si può dire così. Lei parlava di bambini che sono costretti a mangiare il proprio vomito con la testa sbattuta per terra. Queste sono cose che traumatizzano un bambino. Io invece non sono stato traumatizzato da queste, diciamo così, violenze, perché erano più lo scappellotto, diciamo, amorevole di cui parlava lei prima. No, ecco, qua si parla, guardi, io ho visto un'intervista all'ufficiale carabinieri ieri, proprio su Sky TG24, dice: noi stavamo osservando il comportamento di questa insegnante, a un certo punto ci siamo sentiti di intervenire immediatamente perché lo stava picchiando, non era lo scappellotto. I carabinieri stavano, penso, in un pulmino, una stanza attigua, con il monitor a vedere cosa succedeva, perché era sotto osservazione l'insegnante, sono intervenuti perché lo stava menando, erano botte, non era lo scappellotto amorevole. Cioè, facciamo le distinzioni. Chi è che non ha dato mai una sculacciata a un figlio? Nessuno. Ho ancora distorsioni ai tendini delle mani per averlo fatto, probabilmente, perché sotto c'era il pannolone, quindi mi faccio più male io che loro. Ma è altra cosa. Qua è stata di botte vere, di botte date con cattiveria, con sadismo. Giovanna. Sì, buongiorno. Io sono educatrice. Credo che le motivazioni per cui le maestre picchino i bambini siano sicuramente disparate, perché dipende da caso a caso, però secondo me c'è innanzitutto una frustrazione di fondo per queste persone che svolgono il mestiere di insegnanti o educatori, ma che si trovano nel momento di difficoltà di fronte a un bambino disabile, piuttosto che un bambino iperattivo, piuttosto che un bambino con delle problematiche, si trovano senza strumenti e quindi ricorrere alla violenza è molto però facile. Dovrebbero avere questi strumenti, perché la gestione... Sono il bambino disabile d'accordo. E il bambino iperattivo già è un caso a parte, che comunque... pur in assenza di insegnante di sostegno o di addetta comunque a quel bambino, l'insegnante deve avere tutti gli strumenti per o provvedere a quel ragazzo, se no non è un insegnante. Oggi penso, lei mi insegna... Cioè... Infatti questo non è per giustificarle, assolutamente, anzi. Sì, ma però, visto che lei è educatrice, siamo d'accordo su alcuni punti, che oggi, diciamo, la violenza fisica non fa più parte dei sistemi didattici accettabili. Non fa assolutamente più parte. La sento titubante, solo per capire. Guardi, io vengo da una generazione, Giovanna, in cui le botte alla maestra uno non le raccontava a casa ci hanno fatto bene, quindi ho degli strumenti di memoria personale per poter elaborare qualunque tipo di lettura faccia lei. Se lei mi dice fanno bene, Non lo sapevo. No, assolutamente no. La violenza non è assolutamente tollerata e non è contemplata tra i metodi educativi. Certo è che da un certo punto di vista c'è la tendenza dei genitori, e parlo anche da mamma, a giustificare qualsiasi comportamento dei propri figli e demonizzare quello degli insegnanti. Questo non significa che sia giusto che gli insegnanti alzino le mani, assolutamente no. No, che vengano ragazzini terrificanti, che vengano da famiglie terrificanti. Io guardo, sono appassionato di SOS Tata, vedi questi genitori incapaci di gestire i piccoli mostri. Questo è un altro problema. Però arriviamo all'esito di tutto questo. Nulla giustifica le maestre che picchiano i ragazzini. Se oggi arrivano, come ci riesce Tata Lucia, ci fa un programma in televisione, a dare strumenti per contenere questi ragazzini e spiegare anche ai genitori come si faccia, tanto più dovrebbe saperlo fare un insegnante, penso, Giovanna. Secondo me il mestiere di insegnante e di educatore deve essere fatto con il cuore, prima di tutto. Poi deve essere un mestiere, non deve essere semplicemente... Esatto, non è un ripiego. Esattamente. L'idea di portare a casa uno stipendio, nel momento in cui un bambino ti sta un po' più antipatico oppure ti crea una situazione di tensione, di disagio, allora gli alzi le mani. Giovanna, io devo dare la linea alle informazioni della borsa, ma visto che lei è un'educatrice, questa mattina non ho ospiti, ci dedica altri 5 minuti del suo tempo? Assolutamente. Ci sentiamo tra un istante. Volentieri. Tra un istante. Melog, la realtà condivisa. Sono violenze non abbinabili a semplici scappellotti o a sgossoni di prepotenza generica. Sono violenze sul modo di ingurgitare il cibo e posso dichiarare che i bambini venivano fatti pranzare alle ore 10:20 della mattina. Alle 10:20 i bambini venivano messi seduti, la mia bambina era in un seggiolone e tutte le volte che cercava di piangere o di ribellarsi al cucchiaino che gli veniva ingurgitato, veniva scappellottata, gli venivano tirati i capelli e davanti al bavaglio con la mano di questa schifosa 10 minuti senza poter dire nulla. In questo video ho visto il mio figliolo che non voleva mangiare e che l'hanno presa a schiaffi, poi l'hanno alzato di peso con un braccio così. Quella tutta tranquilla, serena, prende la schiaffi. 800240024. Mi riesce difficile questa mattina riassumervi il senso dei tantissimi messaggi. Facebook è invaso da messaggi questa mattina, normalmente molto più tiepida la reazione. Evidentemente è un tema molto sentito. Ho anche tantissimi sms, mi scrive un ascoltatore, sono diventato feticista, sadomasochista a seguito di quello che ho subito ai miei tempi a scuola. Posso riassumere, molti dicono le maestre sono frustrate, arrivano anche a considerazioni su un piano personale molto pesanti, ma penso che la fattispecie della intima trascurazione avviene in qualsiasi categoria dell'umanità, non penso sia soltanto quello il problema. Altri dicono non hanno strumenti per gestire i ragazzini che sono scatenati, sono una maleducazione inaudita e i genitori sono i primi a proteggerli e a far passare ogni tipo di irregolarità. Quindi la maestra a un certo punto non ce la fa più, non ha strumenti, va via di testa e mena. Altri dicono menano perché, come al solito, non sono adeguate al ruolo, non sanno fare le maestre, o perlomeno oggi servirebbe un'analisi molto più profonda di tutta la nostra società. Non è sufficiente soltanto fermarsi all'esito ultimo, bambini non gestibili, maestre che impazziscono e li menano. E nemmeno penso che la soluzione sia soltanto mettere le telecamere. Le telecamere rivelano un sintomo, ma qual è il male che sta dietro questo sintomo? Questo bisognerebbe anche chiederselo. Ripeto, ho fatto l'esempio delle tate televisive, Tata Lucia e la sua squadra. In realtà loro operano sui genitori, come ancora sui figli impossibili, bestiali, animaleschi, ragazzini che sembrano non appartenere più al genere umano, lavorano sui genitori e si capisce che i genitori sono incapaci, non hanno strumenti. Perché? Perché nessuno gli ha insegnato come si gestiscono i figli, probabilmente. Nessuno è più capace a fare il padre e fare la madre. Poi questi figli scatenati vanno nelle scuole con insegnanti che non sono adeguati, non sono attrezzati, non hanno l'adeguamento professionale per gestire ragazzi imbestialiti. Probabilmente questo è il fatto e quindi li menano. Non lo giustifico, ma il fatto sta accadendo. Mi ero interrotto con Giovanna, che è un'educatrice, che questa mattina ci dava qualche esempio dato dalla sua esperienza. Giovanna, dalla mia sintesi dei messaggi e degli sms, cosa da aggiungere? Da aggiungere in realtà molto poco. io credo che siano dei fattori non è possibile prendere singolarmente. Non è che o una maestra è frustrata, o i bambini sono ingestibili, o le maestre non hanno strumenti. Sono tutte queste cose insieme che poi arrivano a un'esplosione di violenza esagerata, incomprensibile. Sì, ma c'è un punto, secondo lei, in cui si può cominciare a intervenire? Allora, i programmi didattici per le maestre, cioè le scuole che ha fatto lei, l'istruzione che ha fatto lei, va adeguata, perché bisogna dare strumenti per gestire ragazzi iperattivi, ragazzi con handicap, ragazzi che hanno anche l'handicap di avere dei genitori che non sanno fare i genitori. Sì, il grande problema è proprio questo, è il problema della formazione degli insegnanti, nel senso che per lavorare in una scuola elementare era sufficiente essere diplomato alle magistrali, vecchie magistrali, quindi all'attuale liceo socio-psicopedagogico. Quindi una formazione arcaica rispetto all'evoluzione veloce della società, diciamo la verità. Esattamente. Però dal mio punto di vista, lavorare alle scuole elementari o lavorare in un asilo non è la cosa più importante che nella formazione dell'insegnante. Non dovrebbe essere la didattica, dovrebbe essere l'approccio educativo con il bambino, perché si tratta di bambini, non stiamo parlando di ragazzi, adolescenti da istruire con nozioni pure semplici. E l'aspetto educativo dell'insegnante spesso è trascurato, soprattutto non voglio generalizzare per attirare le ire di tutti gli insegnanti, però, per carità. Esprimo il suo punto di vista serenamente. Io parlo anche da un punto di vista di studentessa, no? Di quello che sono stata quando sono stata ragazzina, quando sono stata alle elementari, alle medie e alle superiori. Ci sono alcuni insegnanti che sono molto bravi che fanno molto bene la propria materia, no? Ma che non sono minimamente in grado di relazionarsi con il bambino, l'adolescente e l'infante, insomma. Guarda, io ho un'esperienza abbastanza personale e capillare su educatori di ragazzi con handicap, e anche lì vedo persone che sono in continuo aggiornamento, continuamente, se non mensilmente, almeno trimestralmente, fanno dei corsi di aggiornamento. Ci sono signorine esili, gracili, che peseranno 40 kg, che riescono a gestire un ragazzo di 80 kg con a volte anche attacchi di violenza. Quindi esiste una possibile formazione. Una maestra che non riesca a gestire dei ragazzini, per quanto vivaci e scatenati, ma diciamo nella norma dei comportamenti, secondo me avrebbe bisogno di andare lei a scuola e capire come si faccia. Non credo sia un problema irrisolubile. Eugenio, sentiamo Eugenio. Grazie Giovanna. Eugenio. Sì, salve. Allora, quello che volevo dire io è che purtroppo arrivano a scuola dei ragazzi che sono selvaggi, non sono stati educati. E l'abbiamo detto. Ci vorrebbe una patente anche per i genitori, probabilmente, non solo per tante altre cose. A questo si unisce un fatto che le insegnanti, comunque, è un lavoro di ripiego, non si trova più un insegnante maschio in tutta la scuola elementare, sfido chiunque a trovarlo, e per cui si crea questo rapporto in cui i ragazzini sono difesi strenuamente dai genitori e c'è un ambiente solo al femminile che non sa gestire queste cose. Lei ha detto una cosa saggia, secondo me, perché deve esserci questo continuo maternage eterno per i bambini? Infatti, i maestri sono sempre esistiti, è chiaro. Infatti, io mi ricordo il mio insegnante delle elementari, era un maestro ed era una persona che quando entrava in classe veniva rispettato proprio perché era un maestro, mentre nelle altre classi dove c'erano gli insegnanti c'era un po' più di lassismo. Adesso non discriminare, però ci dovrebbe essere, secondo me. È così, manca la figura maschile. Ma perché nessun uomo vuol fare più l'insegnante? Vuole fare l'insegnante perché ci vuole troppo tempo ad entrarci, si guadagna troppo poco, è poco considerato come lavoro, cioè, e invece dovrebbe essere la cosa dove si dovrebbe investire di più, cioè nella scuola elementare, così dovrebbe entrare le persone più capaci, più preparate, non le persone che ne hanno bisogno solo per portare a casa uno stipendio. Quindi manca un principio minimo che è necessario comunque di riconoscimento di autorità all'interno della scuola, e passano da mamme che le danno tutte vinte a maestre che sembrano mamme che le diano tutte vinte, e a un certo punto c'è il cortocircuito e la maestra va fuori di testa. Potrebbe essere una un'ipotesi da considerare la sua. Pio, buongiorno. Buongiorno. Io mi riallaccio un attimo alle ultime parole dell'ascoltatore che mi ha preceduto riguardo ai genitori che devono in qualche modo essere presenti, però io vorrei sottolineare in qualità di figlio di una di un insegnante, ex insegnante delle elementari, che in realtà oggi si passa, i bambini passano molto più tempo con gli insegnanti che con i propri genitori, e questo accade ovviamente in parecchie scuole, soprattutto nelle elementari. E io sono papà di due bambini, e mia figlia frequenta anche il pomeriggio, perciò molte ore le passa in classe. Io volevo portare... Se uno porta a scuola il bambino la mattina, lo va a riprendere alle 5, sì, lo riporta a casa, perciò, alle 7:30, 8 va a letto. Perciò, quindi alla fine... Il tempo che i genitori oggi passano con i propri figli è veramente ridotto. E in quel lasso di tempo, dopo una giornata di lavoro, ovviamente i genitori fanno fatica ad avere lo stesso approccio educativo di un tempo. La società è cambiata anche per gli insegnanti sicuramente. Però io volevo portare l'esempio di una madre insegnante, e ricordo, uno dei ricordi più belli che conservo è quando finiva l'anno e tempestavano gli alunni, mia madre, di lettere, regali, complimenti da parte dei genitori. Io ho osservato questo, cioè molto spesso andavo a scuola di mia madre e notavo la sua capacità di esternare dolcezza. Sì, ma quanti anni fa sta parlando? Di che periodo sta parlando? Ma sto parlando, mia madre lasciò la scuola 10 anni fa, perciò non parliamo degli anni 30. Però diciamo che anche in un decennio l'evoluzione è stata forte. Sicuramente. È cambiato molto rispetto a 10 anni fa. E sta cambiando velocemente. Melog. La realtà condivisa. Perché non ho mai avuto dubbi sulle maestre. Assolutamente, perché la bambina sta benissimo, non ha mai dato segni di cose strane, come dicono. Difendo ancora oggi le maestre e credo in loro e spero che ritornino all'interno dell'asilo. Io non ho mai avuto problemi qua e non ho problemi di tornare qua. Quindi è contenta di riportare il bambino qui, insomma, è contenta che sia riaperto. Sì, sì. Accade sì, poi questo meccanismo che è anche comprensibile, perché si parla di rapporti di forza, si parla di persone privilegiate, di persone tartassate, si parla di una sorta di nonnismo che esiste nella società. Ci sono le madri che dicono che hanno i figli picchiati, bastonati, e nella stessa classe, con le stesse insegnanti, le madri che dicono mai avrebbero avuto pensiero di una migliore maestra. Ma questo accade anche quando becca, non so, un prete pedofilo. La metà delle persone scende in piazza a dire è un santo uomo, e l'altra metà dice no, guardate, anche noi siamo stati molestati. Ma accade in ogni situazione, accade quando viene arrestato un malfattore, c'è sempre chi scende in piazza a dire che è la più onesta delle persone. Ma è possibile avere un criterio oggettivo assoluto nella valutazione delle maestre? Io mi faccio sempre più l'idea che in realtà servano strumenti formativi più raffinati. È vero, la società è cambiata, è vero, non arrivano più quei ragazzini lobotomizzati all'educazione familiare, che se stanno buoni, seduti e zitti, perché così sono abituati a fare in casa, che hanno genitori che fanno dell'autorità lo strumento principale della loro educazione dei figli. Quindi sono figli già educati, erano a scuola, erano già buoni, i discoli erano 2 o 3, la maggior parte era una classe di persone buone negli anni precedenti. Tutto il libro cuore è basato su una serie di ragazzi poveracci, disperati, ma di cattivo ce n'è soltanto uno, che è Franti. Adesso è chiaro, le classi sono composte di tanti Franti. Il Garrone è un esempio lontanissimo e molto raro. Beh, occorrono strumenti per gestire questa realtà. Devono studiare, come il professor Chiappini si aggiorna per saper mandarmi in onda con le nuove console digitali, altrettanto le maestre non capire che non possono più gestire ragazzini contemporanei con strumenti del passato. Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno. Telefonato per dare il mio contributo. Mia figlia, parliamo di 40 anni fa, in un collegio che passava per un collegio prestigioso in Valle d'Aosta, ha passato un po' di tempo in quel collegio e solo dopo anni mi ha confessato che subiva delle violenze, come dire, la facevano mangiare quello che aveva vomitato. Ma quanti anni aveva sua figlia? Oh, era piccola, aveva forse 6 anni. E perché a 6 anni l'aveva messa in collegio? Era una cosa familiare, infatti poi dopo poco tempo sono andata a riprendermela. Però mia figlia me l'ha confessato dopo anni, perché l'aveva tenuto dentro di sé. Però ci ha sofferto moltissimo. Era un collegio che passava per un collegio prestigioso. Io le telefono dalla Valle d'Aosta. Però le posso dire una cosa, ma ragazze, figuriamo se giustifico cose del genere. Parla di 40 anni fa, in cui ho detto, faceva parte probabilmente di una mancanza di attenzione, di evoluzione in ciò che significhi educare o mantenere agli studi e alla vita scolastica, formare un bambino, in cui questi episodi, dico, io ho visto la canna alla maestra che ci dava sulla testa, era una cosa che consideravamo tutti normale, ma nemmeno se la raccontavo a casa destava scalpore, mi raccontavano gli zii e questo accadeva. 40 anni fa è cambiato molto, oggi è un reato e c'è una disapprovazione generale da tutti quelli che si occupano appunto di didattica, di educazione, della società. Oggi non è più ammissibile che si picchino i figli. È un'esperienza brutta, pessima. Quello che succede nelle pieghe più riposte dei grandi istituti educativi lo sappiamo bene, molte volte viene fuori come storia, ci fanno i film sopra e ci scrivono i romanzi. Oggi parlo di un'attualità, di qualcosa che grazie a uno strumento che non amo moltissimo ma concretamente efficace di osservazione, che è la telecamera nascosta, e si scopriamo queste cose, ci rendiamo conto che comportamenti che avevamo rimosso, immaginavamo non più appartenenti alla nostra scuola, alle nostre insegnanti, sono rimasti residui, come le suore facciano mangiare il vomito a sua figlia 40 anni fa, oggi una maestra che la vediamo tranquillamente circolare per strada uguale a noi, veste come noi, parla come noi, si muove come noi, fa parte della nostra società, fa esattamente quel comportamento riprovevole e arcaico di 40 anni fa, compie esattamente quel comportamento, e su questo noi ci stiamo interrogando questa mattina. Giuseppe. Sì, buongiorno Nicoletti di Sale. Io volevo fare due considerazioni. Ho 3 bambini piccoli, 2 che vanno all'asilo e 1 che va alle elementari, e onestamente questa notizia mi ha colpito molto. Però volevo fare 2 considerazioni. La prima riguarda forse la riduzione di stima che c'è nei confronti degli insegnanti, perché spesso come ruolo viene considerato non più importante come era magari 30 o 40 anni fa, e questo chiaramente crea più difficoltà. Cioè un lavorare. Prestigio sociale deprezzato, oggi dire sì, faccio la maestra elementare uno quasi si vergogna. Sì, sicuramente. E questo fare l'escort magari è più prestigioso. O comunque si guadagna di più, quello di sicuro. Ah, quello sicuro. Cioè. Però, ecco, però ci vuole il fisico. Però il problema è che questa, diciamo così, discesa nell'apprezzamento sociale anche nei confronti dei genitori ne ha risentito, perché spesso il genitore ritiene di affidare il figlio insegnante come sostituto, invece deve essere secondo me una sorta di come dire, collaborazione tra genitori e insegnanti. Come diceva anche lei prima, se a scuola mi davano scappellotto, il papà non è che andava a denunciare la maestra, diceva che la maestra aveva fatto bene, senza giustificare la violenza. Sì, però ma erano altri tempi. Io ho soltanto portato un'esperienza che vedo corroborata da quella di tanti ascoltatori. Sono cambiati i tempi, sono cambiati i ragazzi, siamo cambiati noi, è cambiata la società, siamo diversamente articolati. Lo scappellotto non è più la soluzione, le botte non è più la soluzione, poi queste non sono, diciamo, non rientrano nella gamma dello scappellotto didattico, sono atti di perdita del controllo, menano gratuitamente anche bambini che stanno buoni. Se lei guarda i filmati, a un certo punto la maestra va di testa. Perché le maestre vanno di testa? Ripeto la domanda, perché le maestre picchiano i bambini? Ringrazio Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini, questa mattina abbiamo fatto molte ipotesi, però spero che qualcuno prima o poi mi dia una risposta.